Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti e cari radioascoltatori. Innanzitutto segnate il numero verde per poter intervenire, 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Oggi parleremo di rosé, parleremo di un regolamento giunto fresco fresco dalla comunità europea, ma prima di iniziare così voglio fare uno scherzo per entrare in tema appunto della trasmissione di oggi. Prendete mezzo bicchiere di rosso, magari di una bottiglia di rosso che vi è avanzata, prendete mezzo bicchiere di vino bianco, sempre che è rimasto nel fondo della vostra bottiglia della sera precedente, mescolate e otterrete il rosé firmato Unione Europea. Ecco, questo è il succo un po' di quanto andremo a discutere oggi, perché dalla comunità europea arrivano sempre dei provvedimenti molto ma molto discutibili che fanno abbassare la qualità, ma si è scritto di tutto, non si è scritto però una cosa fondamentale, che questo regolamento appunto di mescolare il rosso con bianco, ma poi vedremo tecnicamente, io diciamo l'ho così tradotto in soldoni, hanno votato 26 paesi a favore, tra cui l'Italia. L'unica nazione che si è opposta è la Francia, per ovvi motivi, visto che è il maggior produttore al mondo di vino rosé. Però non si capisce il perché di questo voto favorevole dell'Italia e abbiamo cercato di metterci in contatto con il Ministero per avere così una loro dichiarazione. Purtroppo non ci siamo riusciti, il Ministro è in viaggio, quindi impossibile da rintracciare. Bene, però se ci fosse qualcuno che volesse intervenire su questo argomento, siamo ben lieti, perché vorremmo sentire anche così la voce di chi ha votato a favore per l'Italia a Bruxelles. Ma ora cominciamo a parlarne, andiamo nel concreto, ricordo numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Abbiamo con noi il presidente della Federvini. Buongiorno Lamberto Vallorino Gancia. Buongiorno, ciao Davide. Buongiorno. Tu ricopri anche una carica a livello internazionale, se non erro. Sì, io sono anche presidente del Comitè Rein ed è proprio una cosa che abbiamo discusso, ecco, con tutte le federazioni europee. Bene, allora io vorrei sentire da te, cioè perché di questa disposizione, perché l'Italia si è dichiarata favorevole? Ma sai, qui bisogna vederla a livello europeo, a livello mondiale, nel senso che la nuova OCM, come ben sai, che si applicherà dal 1 agosto, comporta un cambio delle regole del mercato in funzione di una competizione del nuovo mondo sempre più aggressiva, e tra le varie aperture c'è anche quella delle pratiche enologiche. Tecnicamente il mixaggio di vini bianchi e rossi rientra nelle pratiche enologiche. È chiaro che non va vista in modo così negativo, nel senso che alcuni vini che tradizionalmente sono sempre stati fatti senza il coupage del bianco e del rosso, ma partendo dal mosto, si potranno e si dovranno continuare a fare, e ci sono dei disciplinari che possono governare questa pratica, così come i francesi vogliono, ed è per questo che sono astenuti dalla votazione. Dall'altra parte però c'è l'opportunità di avere vini che hanno un maggior rapporto qualità-prezzo, che possono competere a livello internazionale e che fatti con questo sistema vuol dire che danno tecnicamente molta più flessibilità nel poterli produrre durante tutto l'anno e non solo durante la vendemmia. Okay, poi è chiaro che chi vuol fare qualità farà sempre qualità, chi vuol fare il furbo va controllato, va bloccato e sarà poi il consumatore a non consumarlo. Abbiamo già un radioascoltatore, Claudio da Milano. Buongiorno Claudio. Buongiorno, posso rispondere al signore che ha parlato adesso? Mi sono perso un attimo e non ho capito chi fosse. È Lamberto Vallorino Gancia, presidente della Federvini. Ah, ecco. Secondo me lui ha fatto un intervento così un po' approssimativo, perché noi dobbiamo dire che in questo paese di furbi ce ne sono molto di più, molti di più di quanto non ci siano persone per bene nel produrre dei vini. io sono un operatore di questo settore, quindi un po' lo posso dire. Volevo soltanto, il mio intervento comunque era relativo a questo. Secondo me, se in Europa continuiamo a prendere sberle è perché non siamo rappresentati adeguatamente dai nostri eurofannulloni. Vedi un articolo dell'Espresso qualche settimana fa. I nostri politici a Bruxelles fanno solo assenze e interventi zero. Quindi l'Italia continua a prendere sberle in tutti i settori, dall'olio, dal vino e compagnia bella, e dai nostri prodotti tipici. Stiamo soltanto facendoci massacrare tutta la nostra tradizione, la nostra cultura enogastronomica. Claudio, io voglio aggiungere questo, che comunque la votazione è stata 26 su 27, quindi anche se l'Italia... Io sono d'accordo in generale col discorso che lei ha fatto delle nostre rappresentanze a Bruxelles, però devo dire anche che in questo caso veramente la maggioranza è stata schiacciante. Bene, comunque sentiamo ancora Renzo da Siena. Buongiorno Renzo. Sì, buongiorno. Io non so se sarò pertinente al tema, ma comunque sono un tecnico del vino in Toscana e ho avuto modo e ho modo di vedere giornalmente le cantine. Io ascolto la trasmissione vostra e sento parlare spesso del vino e di tutte queste questioni che comunque sono sicuramente interessanti, però secondo me diciamo che si guarda la mosca e non all'elefante. Cioè, io vedendo dalla parte del consumatore, cioè c'è un sacco di leggi, un sacco di discorsi, anche il ministro che è venuto e tutto, ma nessuno pensa effettivamente al consumatore. Cioè, gli spiego in poche parole, insomma, in sostanza, si sta guardando la miscelazione del vino bianco e rosso. Ad oggi, cioè, non c'è l'obbligo di dichiarare nel vino che cosa si sta bevendo. Cioè, le cantine sono praticamente dei laboratori chimici, tutte, anche il Cantillasio. Dentro sembra di vedere, insomma, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, c'è di tutto e nessuno sa cosa è, e non c'è nessun obbligo di dichiarazione di cosa si sta bevendo se non il bisolfito tipico. Cioè, l'unico alimento al mondo, credo, che anche i cosmetici c'è l'obbligo di dichiarare i componenti. Cioè, il cittadino non sa cosa bene dire. Abbiamo perfettamente capito il suo pensiero sul discorso che tutti sono laboratori chimici, mi permetta di dissentire. Ci saranno sicuramente dei laboratori chimici, ma non si può generalizzare in questa maniera. Bene, allora torniamo a Vallarino Gancia. Volevo chiederti questo, un'ultima battuta veloce, perché mi manca poco a passare la linea alla viabilità. Volevo chiederti, ma in un certo senso ci sarà concorrenza sleale se nell'etichetta non ci sarà scritto come sarà prodotto quel rosé? Però scusatemi, ma io dico anche questo, ma esistono già delle pratiche, per esempio nello champagne, dove alcuni si fanno dal mosto, alcuni si fanno da taglio, e sono qualcosa di 200 anni che si fanno, e il problema non c'è mai stato, la qualità c'è, c'è serietà, eccetera. Cioè, non bisogna generalizzare, non bisogna fare la caccia alle streghe. Ripeto, quando si vuole lavorare bene e far bene, la pratica deve poter essere ammessa. Dall'altra parte, però, se ci sono dei disciplinari, se ci sono che vogliono inserire una menzione come tradizionale, cosa che è stata proposta dalla Francia, ben venga, si rispetta la tradizione e la storia di chi parte vuol partire sempre solo dal mosto e proteggere questa pratica. Ma ci sono tantissime pratiche enologiche che si fanno notoriamente in cantina e che non vengono scritte in etichetta, come la malolattica, per esempio. Nessuno sa che cos'è, però è una pratica che permette di fare dei vini in un modo, arrotondarli e farli piacevoli. Quindi attenzione a creare nei confronti del consumatore, che comunque deve dei vini apprezzarli, anche delle informazioni che possono essere pericolose. Il gastronauta. Bene, bene, di che cosa stiamo parlando? Prendi mezzo bicchiere di rosso e poi aggiungi mezzo bicchiere di bianco, magari una shakerata, e voilà, il nuovo rosé. Bene, la mia battuta è spiritosa per dare il senso di questa trasmissione. Ricordo, il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Ricevo molte ancora delle sms che riguardano la trasmissione della scorsa settimana sugli orti di di casa che mi chiedono informazioni. Bene, andate sul sito www.gastronauta.it, troverete tutti, diciamo, le indicazioni per rintracciare i siti di cui abbiamo parlato. Sentiamo Carlo da Bari. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Mi dica. Niente, io sinceramente penso che sia un'opportunità, perché secondo me è un autogol grandissimo che ha fatto la Comunità Economica Europea a nostro favore. Noi siamo abituati culturalmente praticamente a produrre dei vini di qualità, il mercato ormai ci ha insegnato da anni come bisogna operare. Questo secondo me invece è un autogol per tutti i produttori che faranno dei vini scarsi. Noi, potendo mettere sulle etichette vino rosé di qualità non proveniente da mescite, secondo me godremo praticamente dei favori di un mercato d'élite, che è quello di qualità a cui noi poi penso alla fine ambiamo, insomma, no? Perché il mercato basso, ormai ci sono vini che arrivano da tutte le parti, Cile, Australia, non si capisce più nulla, però il vino italiano si è sempre distinto per qualità, e secondo me con questa storia qua diamo il permesso agli altri di fare cose che noi, diciamo, nella gamma alta del mercato di qualità noi già siamo educati a non fare. Anzi, in questo caso si tratta proprio, essendo stati gli altri, diciamo, in un certo senso autorizzati a farlo, bene, si tratta proprio di rimarcarlo. Abbiamo capito, Carlo, io non sono assolutamente d'accordo con lei, perché facciamo diventare il vino italiano da anni vino di grandissima qualità, non lo è stato e non lo è stato in passato, e c'è appena arrivato, quindi ora non esageriamo con questo vino di qualità italiano, perché c'è molto vino di poca qualità, e quindi non prendiamo delle posizioni nazionalistiche molto forti. Non sono d'accordo che è una grande opportunità questa, assolutamente, perché chi lo dice che i produttori italiani andranno tutti su questa direzione? Questo sarà ancora da dimostrare, e io anche su questo non ne sono convinto. Comunque abbiamo con noi un produttore, Sandro Cavicchioli, che l'anno scorso è uscito con un rosé di grandissimo successo. E visto che è anche enologo, oltre che produttore, voglio chiedere a lui appunto un parere. Buongiorno Sandro. Buongiorno Paolini, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cosa ne pensi allora di questo regolamento comunitario e delle conseguenze che può avere sul mercato italiano? Non posso che essere d'accordo con chi dice che si tratta un po' di un pasticcio, perché dal punto di vista dell'immagine non dona sicuramente all'immagine dei produttori di marche di buona qualità. Sicuramente sono in parte d'accordo con l'intervento di Lamberto Ganza per quel che riguarda le opportunità, per quel che riguarda un po' la normativa, le regolamentazioni. Non abbiamo detto e non abbiamo ancora ribadito abbastanza bene che la comunità ha anche dato possibilità ai Paesi membri di scrivere con che tecnica vengono prodotti questi vini rosati, cioè chi userà la mescolanza lo potrà scrivere che usa la mescolanza, e chi userà invece produrrà dei vini rosati provenienti da Bacca Rossa potrà scrivere vini rosati tradizionali. Questo credo che sia un distinguo che il consumatore dovrà imparare a conoscere. Beh, ancora però non è sicuro questo, è stato chiesto ma ancora non è stato concesso a quanto pare. Ma io credo che dovranno concederlo, perché voglio dire, la Francia si è opposta e credo che abbia ben ragione da chiedere questa distinzione. Ecco, come mai secondo te l'Italia non si è opposta? Beh, dobbiamo anche vedere, io non sono d'accordo con l'ascoltatore Claudio in cui certo parlava di euro fannulloni. Io credo che a Bruxelles, quando si fanno queste votazioni, che diciamo così rispetto ai grossi temi generali sono, diciamo, di seconda lettura, possono anche esserci delle alleanze strategiche per ottenere risultati maggiori, magari in campi ben più importanti. Ecco. Bene, sentiamo Maurizio da Milano. Buongiorno Maurizio. Sì, buongiorno. Volevo semplicemente dire che mi sembra che il signor Lorenzo Ganci abbia fatto un intervento molto equilibrato. Queste polemiche contro l'Unione Europea mi sembrano spesso molto semplicistiche. Lei prima diceva che dall'Unione Europea arrivano sempre provvedimenti molto discutibili. Io dico che questi provvedimenti semplicemente poi vivranno in base alla risposta del mercato. Ci saranno consumatori che sceglieranno di consumare certi vini magari fatti in un modo e altri che invece non vorranno e saranno disposti a spendere di più. Mi sembrano un po' le polemiche che c'erano anche in Germania quando è stata autorizzata la vendita della birra non fatta secondo la legge della purezza, che che restringeva molto l'uso di certi ingredienti e meno. Adesso invece in Germania è possibile bere la Peroni, è possibile bere la Foster e i consumatori fanno la loro scelta. Non solo ritengo scellerato quello che sta arrivando dalla comunità europea della trasformazione delle denominazioni in DOP e IGP per quanto riguarda i vini, che creeranno una confusione sul mercato spaventosa. Bene, continui. Guardi, questo non riesco a farle un commento, non so di che cosa si tratta, sì, certo. Ma in generale mi sembra un approccio che lei ha molto, molto semplicista e molto generalista su questi cose. Sulla comunità sì, su tutti i provvedimenti che riguardano l'alimentare di solito sì, a cominciare dai famosi provvedimenti sulla mucca pazza. Sicuramente le vedo provvedimenti molte volte appunto frutto, come ha detto prima Cavicchioli, probabilmente di altri accordi su altri fronti, e non si tiene mai conto della qualità, si va sempre sulla generalizzazione. Sentiamo Rinaldo da Como. Buongiorno Rinaldo. Buongiorno Davide, sono Rinaldo da Como, sono un ristoratore per passione, appena aperto un locale. Volevo raccontarle un aneddoto, tanto per fare allentare un attimo la tensione di queste cose dette così diciamo importanti, invece di una mia un po' una cosa simpatica, ma mi sono seduto in un ristorante di Sant'Antioco, estate, agosto, mi viene dato una brocca con del vino, con del rosé molto fresco, io non sono un grande intenditore, però apprezzo il vino, lo bevo volentieri, allora bevo questa brocchetta di vino molto fresco, molto volentieri, finisce, ne chiedo ancora e mi viene il cameriere con due brocche, una di bianco, una di rosso, e me lo mesce davanti a me, nella mia brocca vuota, e fa il rosé. Questo praticamente no, ho avuto voglia di chiamarla perché lei ha esordito questa trasmissione che seguo sempre perché è veramente piacevole, lei è un personaggio veramente piacevole, ha esordito con questa cosa che invece a me è successa realmente, per cui mi è sembrato così una cosa simpatica di narrarle. Bene, grazie Rinaldo, grazie, veramente interessante questo. Ma abbiamo con noi anche il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, sentiamo cosa ne pensano i sommelier, poi volevo chiedergli comunque a Terenzo Medri, buongiorno Medri. Ciao, buongiorno, ciao Davide, come stai? Tutto bene? Bene, volevo chiederti questo, ma i sommelier italiani vengono mai consultati quando ci sono da prendere decisioni in sede comunitaria dalla delegazione italiana? No, non vengono consultati. Comunque noi su questi provvedimenti non è che siamo molto d'accordo, perché tu sai benissimo che noi siamo per la tracciabilità, siamo per il rispetto del territorio, del terroir, siamo per il rispetto dei disciplinari. Perciò questo regolamento ci preoccupa un po', perché abbiamo paura che nasca qualcosa che va verso più sul vino quotidiano che sull'alta qualità. Io ritengo che l'Italia vince sull'alta qualità, noi dobbiamo sapere da dove arriva il vino, noi abbiamo dei vigneti fantastici, noi vogliamo praticamente che siano messi in evidenza, solamente che nella Commissione Europea cosa succede? Hanno bisogno un po' di mediare il Nord Europa con Sud, l'Italia è un paese a parte perché l'Italia è ricca di vigneti, di colline, di borghi, è ricca di sole, capito? E abbiamo una realtà diversa, perciò noi non abbiamo bisogno di tante cose, noi abbiamo bisogno di mettere in evidenza solamente ciò che abbiamo, ecco, perciò questo sono molto preoccupato per questi rosati, anche perché il rosé in questo momento è un vino che sta andando perché i giovani lo bevono volentieri, capito? E abbiamo bisogno di dare solamente dell'eccellenza e dell'alta qualità. Questo provvedimento mi preoccupa, a parte il fatto che ancora non è chiaro, che mi sembra ancora che molte cose siano da mettere a punto, però sono un po' preoccupato, siamo un po' perplessi. Bene, devo dire comunque una cosa, che mi sembra chiaro che questa disposizione arrivi da un'esigenza, che è quella della sovrapproduzione, quindi essendoci tanta sovrapproduzione ovviamente si è scelto questa strada, forse la più semplice e la più facile per smaltire il tutto, e in questa maniera non credo che si vada verso la qualità, forse verso la qualità si sarebbe andati nel cercare di ridurre la produzione. Comunque torniamo a un altro radioascoltatore, Alfredo della provincia di Roma. Buongiorno Alfredo. Buongiorno signor Davide. Mi dica. Io c'ho un piccolo problema che mi è capitato in questi ultimi 2 anni. Mi viene alla fine un vino dolcissimo che io non apprezzo molto. Ah. Io c'ho un Trebbiano Toscano e la vinificazione è fatta per 20 anni è sempre la stessa. Vorrei sapere se c'è un sistema per evitare questi inconvenienti. Sai, è molto difficile poterle rispondere. Io ci provo con Sandro Cavicchioli, visto se magari in qualche maniera può darle un aiuto veloce. Sandro, di nuovo. Ma guarda, se rimane dolce probabilmente c'è un problema di temperatura, di fermentazione, ci possono essere anche troppe densità zuccherine se lei alleva e coltiva queste uve in maniera particolare. Sandro, io volevo chiederti questo, tu produrrai il rosé, diciamo, con questa nuova disposizione, avendo questa possibilità? No, perché noi produciamo solamente rosé a denominazione di origine controllata o IGP, per cui questi sono già regolamentati. Per cui io trovo che l'ascoltatore Carlo, che prima ha fatto quell'intervento dicendo che il nostro vino di qualità è riconosciuto, che tu hai contraddetto giustamente, perché ce lo dobbiamo ancora conquistare questo riconoscimento a livello globale, però certamente abbiamo le carte in regola, cioè noi le nostre regole per tutelare le nostre denominazioni sono molto a posto. Chi vorrà affrontare questi mercati, diciamo, di larghissimo consumo potrà usare questa tecnica. Da questo punto di vista non lo ritengo una cosa negativa. Quindi sei d'accordo che per combattere la sovrapproduzione questa disposizione? Non c'è dubbio che sia stato fatto per quello. E è strano comunque che la Francia si sia opposta, forse semplicemente ad usum delfini, come si dice, verso il mondo, perché sovrapproduzione sicuramente ce n'è tanta anche in Francia. Beh, sta difendendo sicuramente una leadership importante, perché la Provenza, la zona sud della Francia, in questo momento sicuramente è leader per quel che riguarda i vini rosé. Bene, grazie Sandro Cavicchioli, grazie a Terenzo Medri. Il gastronauta. Vino rosé, i miracoli di Bruxelles, dal rosso al bianco e voilà, in un bicchiere nasce il vino rosé. Sentiamo Nicola da provincia di Foggia. Buongiorno Nicola. Sì, buongiorno, grazie per l'intervento. Senta, in ambito europeo accade sempre così, e cioè se tu dai una cosa a me, io do una cosa a te. Detto in parole molto semplici, voglio dire, l'Italia ha votato a favore perché probabilmente ha avuto altro su un altro fronte. Per esempio, mi viene in mente l'azzeramento delle multe per le quote latte in eccedenza. È possibile, Nicola? Certo che sì. Tenga presente poi che la Lega aveva promesso questo in campagna elettorale e il ministro Zaia, che guarda caso della Lega, ha dovuto mantenere. È molto semplice, insomma. Sì, ma nessuno lo esclude, l'abbiamo anche diciamo detto precedentemente. Grazie Nicola. Sentiamo anche Vittorio da Rimini, un altro radioascoltatore. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Sir Paolini. Io le faccio un paragone che forse non può capire meglio per il pubblico che non è quello specifico del vino. Nel sentire che anche le nostre istituzioni difendono questa iniziativa viene da ridere. Nel pensare che poi ci si arrabbia se altri producono, ad esempio, il parmesano e lo spacciano per parmigiano. Quindi, se noi italiani diciamo va bene che il rosé viene fatto in questo modo, bisogna accettare anche che altri che producono prodotti similari o copiazzano i nostri prodotti diventano quello. Tanto se la logica è che poi posso scegliere perché capisco o non ho soldi da spendere il parmigiano, compro parmesano, vale anche l'altro discorso, perché poi qui si è giocato molto, a parte le quote di produzione che ce n'è tanto o meno, anche su chi capisce sceglierà il vino buono, chi non capisce berrà l'altro. Bene, grazie Vittorio. Il paragone, diciamo, che non è proprio lo stesso, ci sono così diciamo percorsi diversi. Comunque grazie dell'intervento. Bene, abbiamo con noi un winemaker internazionale come Roberto Cipresso. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Roberto, volevo chiederti, diciamo tu che spazi dall'Italia in giro per il mondo anche in paesi che sono extraeuropei, è questo che mi interessa conoscere, il Cile, l'Argentina ed altri, la produzione del rosé è così libera in cui si possono produrre rosé appunto mescolando rosso col bianco? Guarda, in Argentina, in Australia, negli Stati Uniti ci sono, insomma, è molto più elastico il processo di winemaking, di fare vino, però diciamo che come sempre è il mercato che dà che dà indicazioni, no? Nel senso che sempre più, beh, da un po' di tempo a questa parte sappiamo che il rosato è diventato anche un po' di moda ed è molto seguito dalle bollicine rosate fino ai rosati fermi. E anche su mercati, diciamo, nuovi, di nuovo mondo, l'identità sulla varietà non ha nulla a che vedere con il terroir, quindi con la zona di appartenenza, ma la riconoscibilità della varietà sta diventando in un target di consumatori che è quello medio molto importante, cioè poter riconoscere il vino. E questo è il limite di questa sorta di caffè macchiato che non mi piace, è che si crea la bibita, cioè nel senso un Pinot nero vinificato rosato, vinificato quasi in bianco e che lascia dalle polpe rosate questi riflessi che sfumano sul rosso, dal naso ti dà un'identità legata al Pinot nero. La stessa cosa succede, beh, noi l'abbiamo nella nostra Puglia, soprattutto con il Negro Amaro, cioè riconosci un rosato che appartiene a una varietà di appartenenza, che appartiene a una varietà di partenza. Quando tu vai mescolando, tagliando, scimmiottando, purtroppo fai delle bibite, certo, che hanno un bel colore, che hanno... Però mi vengono in mente, insomma, gli aperitivi, i famosi spritz, che peraltro sono buonissimi, ma che però non hanno nulla a che vedere con il vino e con l'uva, certo, e l'origine, no? Bene, rimani con noi. Tra poco, tra l'altro, ci collegheremo con l'Australia, ci collegheremo con Sydney, con la nostra antenna colà, e ci faremo raccontare anche cosa succede in Australia sul rosé. Sentiamo Giorgio Tommasi. Giorgio Tommasi è il presidente del consorzio di tutela del vino Bardolino, che ha preso posizione su questa vicenda. Buongiorno Tommasi. Buongiorno a tutti. Allora, voi cosa ne pensate, voi produttori del Bardolino? Ma noi siamo contrarissimi a questa proposta, e tanto è vero che abbiamo preso posizione e abbiamo anche annunciato una petizione proprio alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo, al Ministro, per che rivedano questa, ritornino sui passi di questa decisione. Per noi il chiaretto, da noi si chiama così, il rosato è molto importante, sono 9 milioni di bottiglie all'anno vendute, e con una crescita addirittura del 40% negli ultimi 2 anni, quindi noi siamo particolarmente interessati e sensibili a questo tema. Bene. Pensiamo che questo sia un'ulteriore conferma, questa della Commissione Europea, di considerare il vino come un qualsiasi una commodities industriale. Una commodities, sì, esatto, la parola giusta, di un territorio, di cultura, di, certo, tradizione. E pensando in questo modo, loro hanno l'idea di poter competere a livello internazionale con gli altri paesi emergenti, ma secondo me è una battaglia assolutamente persa. Dobbiamo non competere sulla quantità e sul basso prezzo, ma sulla tradizione e sulla qualità. Beh, è evidente che c'è un problema di sovrapproduzione, questo è inutile negarlo. Sentiamo Antonio da Bari, buongiorno radioascoltatore. Buongiorno, salute. Mi dica. Il rosé ha un procedimento suo particolare che non può essere confuso con quello che fa le mescolanze. Se proprio le mescolanze dovessero reggere poi le richieste dal mercato, potremmo chiamarlo, non so, rosso imbiancato oppure bianco arrossato. Io lo chiamerei rossetto. Rossetto. Bene. Bene. Certo Antonio, ha ragione, bisogna cambiare, ma bisogna scrivere sull'etichetta, più che cambiare nome sicuramente bisogna scrivere sull'etichetta da che procedimento è ottenuto, non so se questo in quale maniera sarà possibile, però bisogna ricorrere a questo per differenziare. Grazie, sentiamo Francesco da Roma, buongiorno Francesco. Sì, buongiorno, grazie, vorrei approfittare degli esperti che sono collegati per fare 2 domande sul rosé. La prima è questa, di carattere storico: se è vero che il primo rosé DOC è stato un rosé pugliese della Leoni de Castris, il Five Roses, negli anni 80. La seconda domanda è, andando in Francia 2 o 3 anni fa in un ristorante di un certo livello, il maître sommelier, servendoci un rosé, ce lo portò che era di colore quasi ramato, cioè chiarissimo, ricordava proprio, non era un rosé, e ci spiegò che loro in Francia non si fidano dei rosé che hanno un colore molto vivido, molto intenso, perché mi spiegò anche il motivo, però era molto tecnico. Quindi era un rosé della Provenza. Grazie Francesco, sulla prima domanda, sulla prima domanda storica, chissà se sei stato il primo, sicuramente Five Roses è stato uno dei primi a imporsi sul mercato e così a iniziare la via del rosé. Ma sentiamo dal nostro cipresso la seconda domanda, quella di questo colore ramato molto molto chiaro, se è possibile, se è una caratteristica francese. Roberto. Ma una caratteristica francese è una caratteristica diciamo abbastanza comune, e adesso non voglio entrare in aspetti troppo tecnici, però su zone legate al Midi, legate a zone calde, i pH delle uve e poi dei vini tendono ad essere un po' alti, e quando i pH sono un po' alti i riflessi proprio antocianici sono un pochettino più opachi. E in effetti per poter marcare una nota un po' più accesa a volte, come dire, o si lascia un po' troppo sulle bucce o si va sofisticando, aggiustando, toccando, e questo probabilmente potrebbe essere una giusta osservazione, cioè un vino un pochettino più pallido lascia presagire che la proprietà è stata attenta a non toccare, a non inquinare in qualche modo l'uva di partenza. E mentre nelle zone più nordiche, quelle più diciamo dove i climi sono più rigidi, dove le acidità sono più sostenute, i pH sono più evidentemente bassi, ecco che in quei casi lì le note sono più accese, un pochettino più nervose, e la tenuta anche proprio del colore è molto più precisa. Bene, grazie a Roberto Cipresso. Sentiamo Enrico da Roma. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Senta, velocissimo vi riferisco un aneddoto. Una quarantina di anni fa prendemmo casa in una località balneare vicino a Roma e c'era una cantina cooperativa, cantina sociale cooperativa del luogo, dove mi recai a prendere vino anche per assaggiarlo. E mentre aspettavo il mio turno, arrivò un signore con una tanica e chiese del rosato, così, rosato. Io pensai, ah, però fanno anche il vino rosato. E la procedura è questa, il gestore si rivolse a lui e gli disse 50-50? Sì, disse lui, 50-50 va bene. E così gli riempì mezza tanica di vino rosso e mezza tanica di vino bianco. Ho capito. Fine dell'aneddoto. Bene, grazie Enrico. Voglio aggiungere anch'io magari qualche considerazione, che è questa, che tra l'altro buona parte degli italiani, buona parte credo anche dei consumatori in giro per il mondo pensano che il vino rosé sia fatto veramente mescolando. Questa secondo me è un'idea molto molto molto diffusa, e magari chissà, c'è già qualcuno che aveva iniziato a farlo in questa maniera. Ho diversi sms in proposito che mi dicono anche un venditore del vino di Colle Euganei racconta aneddoti di questo genere, che molti consumatori non credevano che ci fosse il metodo della macerazione pellicolare o quella del salasso, che sono le due tecniche con cui viene prodotto oggi il rosé, che ha questo nome, cioè che porta questo nome e deve portare questo nome quando è prodotto in questa maniera. Bene, io ringrazio Giorgio Tommasi e ringrazio anche Roberto Cipresso. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a bere rosé, speriamo di berlo a vecchia maniera, oppure magari chissà quanti rosé hanno già contenuto questa tecnica del mixaggio. Bene, io in questo avevo preannunciato che saremmo andati in Australia, Sydney, dalla mia antenna colà. Andiamo da Piero Tantini. Buongiorno Piero. Buongiorno Davide, un piacere, buongiorno a tutti. Bene, stai guardando il Gran Premio forse, o hai visto il Gran Premio. Bene Piero, volevo chiederti, cosa succede per il rosé in Australia? Come viene prodotto? Mescolando bianco col rosso oppure le tecniche del salasso, della macerazione pellicolare? Inoltre, funziona molto bene il rosé in Australia? Sta funzionando molto bene, è in un trend estremamente positivo. L'abbiamo visto sulle bolle, sulle bollicine, ma tantissimo anche nei vini femmine, nei vini tranquilli. È un grandissimo successo. Devo dire che naturalmente, come tu e già gli ospiti hanno sottolineato, l'impulso a vendere scorte di vino di sovrapproduzione ha sicuramente portato alla creazione di un nuovo prodotto e alla spinta di marketing di un nuovo prodotto, e il pubblico sta rispondendo tantissimo. Ma ci sono delle regole in Australia per la produzione del rosé, che tu sappia? No, cioè, non ci sono regole sul blending dei vini sostanzialmente, quindi si lascia carta bianca, le regole sono tutte rivolte alla salvaguardia della salute e quindi alla sicurezza del prodotto, ma non sono assolutamente rivolte alla modalità di assemblaggio dei vini. Quindi c'è la deregulation come su ogni cosa che riguarda il cibo e il vino. Bene, rimani con noi Piero. Abbiamo con noi io quello che chiamo il santone del vino italiano, bene, un grande tecnico, un grande imprenditore. Buongiorno Ezio Rivella. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti, grazie per il santone. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensi di questo nuovo regolamento comunitario. Beh, la cosa era con l'internazionalizzazione, insomma, era fatale che si andava in quella direzione, insomma. Io credo che i rosé di un certo livello qualitativo saranno sempre prodotti vinificando in semi bianco le uve rosse, e poi ci saranno i rosé minori, quelli meno importanti, che già in passato si facevano con il taglio, anche se non erano questo che ho detto io, sì, certo. Il taglio di un po' di rosso, uno schizzo di rosso sul bianco, insomma, viene rosé, però ovviamente non c'ha quel carattere, quella perfezione stilistica che c'ha il rosato ottenuto da uve rosse vinificate semi in bianco. Senti, però se bisognerà garantire chi lo fa ancora, appunto, con le tecniche, chiamiamole così, non tradizionali, perché probabilmente tradizionali è il mixaggio, ma con le tecniche, quelle della macerazione del salasso, cioè bisognerà proteggerlo però. Certamente, perché credo si possa indicare, insomma, in controetichetta, magari nella spiegazione sulla produzione, dire che effettivamente è un rosé, comunque certi rosati, anche quelli del Golfo, quelli del Salento che si sono affermati, insomma, sono fatti molto bene, insomma, vinificando in bianco e rosse, insomma, ecco. Sentiamo Domenico da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Domenico. Sì, buongiorno. Senta, io intanto complimenti per la trasmissione, e sono molto contento che parlate spesso di vino, perché più se ne parla e meglio me. Io sono un sommelier di Milano. Volevo risottolineare l'intervento che ha fatto Cipresso, a me è piaciuto tantissimo, perché secondo me l'unico vero procedimento per fare vino rosato è quello di macerazione, che rispetta, secondo me, quelle che sono le caratteristiche dell'uva di provenienza e quello che dà migliori risultati. Io sul fatto degli assemblaggi dei tali sul rosato non ci credo minimamente, non li ritengo nemmeno vini veri dal mio punto di vista, quindi rimane, secondo me, la procedura. Ricordiamoci che poi sul colore, perché ho sentito dire sono rosati chiari, dipende sempre da quanto lasciamo le uve rosse in macerazione, certo. Quanto tempo lasciamo le uve rosse. Ricordiamoci che nel bresciano ci sono anche i chiaretti oltre che i rosati. Comunque, ecco, volevo sottolineare che secondo me l'ideale procedimento è quello. Bene, grazie Domenico da Milano. Sentiamo Gualtiero, sempre da Milano. Buongiorno Gualtiero. Buongiorno Davide. Buongiorno. Volevo dire questo: noi col ristorante, con tutti gli avanzi che abbiamo delle bottiglie, no, che i clienti lasciano, potremmo fare il nostro rosé, il rosé del Rovello, che viene fuori una volta chiaro, una volta un po' più sporco, di qualità comunque, non è male la cosa. No, non è assolutamente male, visto se i vini di base sono male, va bene, grazie okay. Gualtiero. Bene, voglio tornare a Tantini e voglio tornare in Australia, voglio chiedergli, più o meno, Piero, quanto viene un rosé medio, diciamo, australiano al consumatore? Beh, i prodotti, diciamo, non entry level, cioè quelli, direi, al limite della potabilità, sono particolarmente economici, cioè parliamo in enoteca dai 3 o 4 euro, 3-5 euro. Naturalmente le aziende un po' più conosciute, i prodotti di qualità vanno in prezzo con i nostri classici fra i 10 e 15 euro lo scaffale, diciamo, tradotto in dollari. Bene, torno a Ezio Rivella, e volevo sicuramente ritornare su quello che lui ha detto. Giustamente, mettiamo in controetichetta, diciamo, come è ottenuta la produzione. Perché poi, sai, ci sono le mode, scusa Davide, ci sono le mode. A un certo punto in America andavano di moda, vanno con i blush che appena... è una cosa appena arrossato, insomma. Sì. E quindi, come si vede, ci sono 12 tonalità definite di rosé. Ma no, io volevo chiedergli, ma interessante questo di questi vini blush, ma volevo chiederti anche questo. Tu dicevi giustamente mettiamo in controetichetta, sì. Ma tutti lo dicono, mettiamo in etichetta, ma Pensiamo che il consumatore sia in grado di distinguere l'uno dall'altro. Questo è il consumatore navigato, quello che segue le tue trasmissioni, che segue, sa qualcosa di vino, naturalmente conoscerà i metodi di fabbricazione, cioè si orienterà su quei vini prodotti in un certo modo, insomma, poi certo, quelli che hanno denominazione d'origine o comunque una dovranno seguire per forza queste procedure. Quelli che invece sono vini da pasto correnti, insomma, che quelli ha poca importanza, se siano bianchi o rossi o rosei. Purché si beva vino. Grazie a Rivella e un grazie particolare a Piero Tantini da Sydney. Voglio chiudere la trasmissione con un SMS di Marina da Milano, che me ne ha già mandati diversi, ma questo è fondamentale per chiudere. Che i bastardoni del rosé ci siano sempre stati non giustifica l'imprimatur comunitario, questo è grave. Io sposo in pieno, come chiusura di questa trasmissione, questo SMS così sintetico e così pieno di significato. Il vostro Gastronauta oggi vi saluta, vi dà appuntamento ogni giorno con la pillola alle 18:30 e adesso continua il riposo del guerriero.